quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Alma al Centre de Culture de Saint-Gilles, questa è appunto Radio Alma e la trasmissione si chiama I Colori dell'Anima su 101.9 FM. Buonasera Giampaolo. Buonasera Carla. Ma buonasera a tutti, buonasera ad Angela alla regia. Lo vediamo con buonasera, un capello buonasera. Più ribelle del solito. Cotonato, cotonatissimo. Anche il cervello ribelle stasera? Sì, no, il cervello l'ho lasciato a casa nel gabinetto. Vabbè, come sempre, insomma. Ebbene, ricordiamo i numeri di telefono ai nostri ascoltatori. Oltre che a ricordarti che devi parlare vicino al microfono. E oltre a ricordare che ho una cuffia rotta e stasera sentirò da un solo orecchio, quindi testerò le mie abilità del mio orecchio sinistro, quindi mi sembra che funziona. Allora, lo 02 345 26 56 per telefonarci qui in diretta e porre domande, oltre che agli animatori, ma non siamo interessanti. Giampaolo, che dici, c'è qualche domanda per noi? Non lo so, non ancora. Forse non ancora. Per qualcun altro possiamo. Però aspettiamo chiamate numerose ed aspettiamo soprattutto gli SMS al numero che ormai tutti i nostri ascoltatori affezionati conoscono bene, che è lo 0032 471 4078 04. Quindi mandate i vostri SMS al numero del nostro grandissimo Angelo, oppure commentate la nostra pagina Facebook, dove vediamo sempre più numerosi, che è www.facebook.com/angeloecarla. Angelo e Carla on air. Bravissimi, ma abbiamo sentito questa splendida canzone di apertura. Vogliamo dare qualche indizio? Solo qualche indizio ai nostri ascoltatori. Non ci sveliamo troppo. Non devi. Lo sappiamo che sei ribelle. Beh, ma non... almeno diciamo che non era un disco. Beh, almeno diciamolo. Certo. Cioè, no, uno che facciamo i misteriosi qua. Almeno diciamo che non era un disco. Diciamo che sei una bellissima chitarra che si è suonato live qua dentro gli studi di Radio Alma. Io direi che anche lui è bellissimo. Già ho rivelato troppo. Dai, vabbè, non lo so, non abbiamo appurato il fatto che sia masculo. Magari dopo intervistandolo vediamo se è veramente masculo. Verificheremo. Con una legata magari foto. Carla te ne occupi tu, io non fremo dalla voglia di verificare. Ma oltre ad ascoltare della vera musica dal vivo, stasera abbiamo altri ospiti e un tema particolarmente ondulato, direi. Ondulato? Sì, ondulato come un ponte. Ma ondulato sussultante o ondulato? Ondulato. Ondulato, ondulato. E basta così, non sveliamo troppo. Sì, parliamo di un tema un po' in legame anche col Papa. Con il Papa, sì, addirittura, e parliamo di Argentina. Perché pontifici. Ragazzi, no, siete fantastici, non sapete dove cavolo andare a parare, quindi vi vedo che boccheggiate. Stiamo boccheggiando per il caldo. Fa molto caldo. No, il tema, noi stavamo andando a parlare su un tema pontifico o con dei ponti. Non dei ponti. Parliamo di ponti questa sera. Let's bridge. Però parliamo di ponti speciali. Non vi diciamo subito perché, ma sono ponti molto speciali. Come quello siciliano. Il ponte sullo stretto. Ecco, ed è quello il progetto di cui parleremo oggi con architetti, ingegneri. Abbiamo gli ingegneri illustrissimi. E esponenti del partito del PD, PPL, PDL. Del PDL. Cioè? Ecco, volevano fare il ponte, no, in Sicilia? Ah, volevano fare il ponte. E non lo so, non si è visto nulla. Ce l'abbiamo qua, non hai visto? Abbiamo invitato i politici, non ti siamo ancora presentati. Abbiamo anche il plastico, sembra qua la trasmissione di Bruno Vespa. Sì. Ragazzi, oggi parleremo di ponti umani, ponti tra le persone, ponti attraverso varie forme d'arte, attraverso la fede anche e soprattutto ponti attraverso conoscenze, nuove persone, nuovi talenti. E vi lanciamo e vi lasciamo al secondo pezzo di Fabio Vitelli. Ma come Fabio Vitelli? Si chiama Alessio. No, no, lui si è presentato, mi ha detto Fabio. Ah, lui si è presentato, sì, sì, ha detto Fabio, Fabio. Ah, sì, ok, sì. Ah, benissimo. A me invece aveva detto Marica, Marica Vitelli. È possibile che fosse questa Marica? Questa sera stiamo facendo il gioco delle tre carte. Sì, infatti. Adesso cioè, lanciamo un contest e gli ascoltatori dovranno indovinare come si chiama l'artista che abbiamo appena ascoltato. Sì, infatti. Ragazzi, io sostengo che Marica, si chiama Fabio. Marica, Fabio, Alessio, la 1, la 2, fatevi la 3. sentire. Intanto lo lasciamo al prossimo brano che si intitola Dai suoi occhi. Ormai si decide spesso su un'unica ragione, si parla, si conta appena se ne ha l'occasione. Non credere a chi o a nessuno che non abbia uno specchio, parlagli per ore dai suoi occhi vecchi. Ma parte una notte tra te e le tue dita, cosa vuoi che ti porti un pensierino sulla vita? Non mollo nessuno e nessuno tengo stretto, finché la soluzione non peserà qualche etto. E riderò persino sulle funzioni delle dita, sulle nuvole, sulle strade, sul colore di ogni sfida, contro chiunque bestemmiando ha sopportato il mio lamento. È una buona virtù capire tutto in un istante, ma in 20 minuti gente le mie parole sono tante. Non lascio perché rimaniate stupiti, ma per uscire indenne dai vostri inutili riti. Ricorderò di voi soltanto un momento, quando dalla mia vita avete sottratto ogni senso. Non ci sarà motivo sulle vostre bocche malate, per le fini così rare da sembrare fatate. Riderò persino sulle funzioni delle dita, sulle nuvole, sulle strade, sul colore di ogni sfida, contro chiunque bestemmiando ha sopportato il mio lamento. E riderò persino sulle funzioni delle dita, sulle nuvole, sulle strade, sul colore di ogni sfida, contro chiunque bestemmiando ha sopportato il mio lamento. Ricorderò di voi soltanto un momento, quando dalla mia vita avete sottratto ogni senso. Non ci sarà motivo per questo inutile atto, tirate adesso voi dadi, io già l'ho fatto. E ben ritrovati qui ai Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9. Avete appena ascoltato una canzone di Alessio Vitelli, Dai suoi occhi. E svegliamo questo segreto, no, sei veramente io sono tu? Io sono Alessio. Sono appena tornato. Sei proprio sicuro che sì, per adesso sì. Sicuro? Mi ero un po' confuso sinceramente, sì, anch'io, perché infatti sono iniziato un po'... un po' saltellando alcune cose. Sono appena arrivato qui a Bruxelles e la faccia da Fabio. Sono stai invecchiando, Carla. Devo ancora ambientare. Innanzitutto complimenti. Grazie di essere qui con noi e di colorare questi colori dell'anima con la tua musica. Diciamo la verità, si è rotto il CD e non avevamo più non sapevamo come fare, l'abbiamo trovato per strada, l'abbiamo raccolto e abbiamo detto: "Dai, vieni a cantare e a suonare". Poi meno male che è pure bravo, dai. È andata bene. La pizza poi ci sta alla fine, mi ha detto la pizza non offrivi, quindi... No, non incominciamo, niente, gratis. Allora, Quella congelata, quella sì. C'ho fame. Quella alle Hawaii, devi sapere che qui fanno la pizza alle Hawaii che si chiama... che c'ha i pezzi di ananas. C'è la preferita di Angelo, devo sì, dire. Sì, quella tutte le sere, lui, prima di andare a dormire, ananas. Sì, è voglia, poi dopo, il giorno dopo vado al bagno, non vi dico poi quello che succede nel bagno. Vabbè, passiamo ad altro, siamo parlavamo in fascia protetta, d'arte. Mi ricordo... Protetta, diciamo, ricordiamolo. Allora, parlavamo piuttosto di appunto ponti, legami, e la trasmissione di oggi appunto si chiama Facciamo ponti, Let's Bridge. Costruiamo questi ponti, però abbiamo detto che si tratta di ponti molto particolari, si tratta di ponti umani, si tratta di ponti che vanno molto più in là di quello che possono fare i ponti costruiti dagli ingegneri. E in realtà qua noi abbiamo degli ingegneri molto, molto particolari che ci parleranno un po' di questi ponti che vanno al di là, se ho capito bene, vanno al di là di quelli che sono i confini degli stati, delle lingue, un po' insomma dei limiti del mondo materiale, no? E forse è il caso di presentare Matteo e Paolo, Matteo Boccardo e Paola Versano. Eccoli qua. Forse Ciao. C'è tra di voi un Fabio? No. No, nessun Fabio, no, non penso. Ragazzi, se perdo i colpi, non lo so. Secondo me un Fabio c'è, bisogna cercarlo, cioè, qua. In questi grandissimi studi di Radio Alma troveremo un Fabio nascosto. In bagno, forse. Allora, Matteo. In bagno non c'è nessuno, ho controllato. E beh, fuori una stanza. Benvenuti, ragazzi. Dopo la pizza alle Hawaii. Allora, Matteo e Paolo, chi ci vuole parlare di questo Let's Bridge? Innanzitutto, cos'è? Perché i nostri radioascoltatori stanno dicendo sì, ma... Parlate insieme, all'unisono, vediamo se dite le stesse cose. Non penso proprio. Penso sia difficile. Niente, già la prima prova è già miseramente fallita. Allora, se costruiscono ponti questi due, cioè, sai che ponte? Siamo messi male. Mi ricorda un po' quando costruivano il ponte sotto la Manica, che a un certo punto gli inglesi sbagliarono, andarono verso sinistra. I francesi andarono verso destra e non si incontrarono più e continuava ad andare. Mi ricordo questa cosa, io ero piccolino, rimasi impressionato. Avrei una battuta, ma è un po' squallida. Passiamo oltre. Facciamo andiamo. Nella prossima trasmissione, quella dopo le 23, magari sì, te la concediamo, quella là. Allora, Matteo, cos'è? Cos'è questo Let's Bridge? Diciamo, queste persone alla radio parlano di questa cosa, ma cos'è? È un'associazione? È una trasmissione televisiva? Che cos'è? Allora, Let's Bridge è un'attività organizzata dal Movimento dei Focolari che è qua in Belgio e fatta da giovani che vengono da tutto il Belgio, dunque dalla parte fiamminga, francofona e quella tedesca, e che dall'anno scorso lavoriamo insieme, siamo al secondo progetto e lavoriamo insieme per creare un'attività quest'anno per far scoprire ai giovani d'oggi come vivere insieme, ma nella pace, chiamiamolo nell'amore fraterno, al posto di avere la vita di tutti i giorni che può sembrare più banale. Paolo, la definiresti allo stesso modo questa associazione? Lo vedo, ha detto, ma questo che ha detto non è vero proprio, no, lo vedo, ma tu chi sei, ma chi ti conosce? Sarebbe da lui. Ero piuttosto d'accordo, sì, no, io sono d'accordo con quello che dice Matteo, e così, per me questa esperienza è bella per una ragione. Io non sono belga, ma vivo qui a Bruxelles ed incontro persone molto diverse tra loro nella città e certe volte mi chiedo come sia possibile poterle mettere insieme e cercare di farle lavorare insieme. L'idea del progetto è questa, cioè è mettere insieme persone diverse tra loro su un progetto comune e cercare di costruire qualcosa di bello condividendo gli stessi valori. Quindi è quello che dice Matteo, formulato con in altre parole. Modo. Una frase che era tornata durante un'intervista fatta da una... Adesso iniziano a picchiarsi, lo sento che è partito con tono critico, lo sento. No, non potrei. Voglio troppo bene. Non abbiamo la cassetta di quella di pronto soccorso, sì. Abbiamo solo l'alcol. Ma quello non c'è problema, tanto lo ammazzo, punto e basta. Lo vedi? No, è una frase che tornava spesso da quando si facevano piccole interviste durante il progetto, e che tutti consideravano questo gruppo come una seconda famiglia. Dunque proprio il fatto di creare dei legami forti tra persone che alla base non si assomigliano al punto di vista delle provenienze, della lingua, della religione, delle attività e così diverse. Ok. E voi vi siete conosciuti nell'associazione, grazie all'associazione, o a prescindere eravate amici, colleghi? No, in effetti ci siamo conosciuti all'interno del progetto, e ora siamo molto amici, ma ci siamo conosciuti credo un anno fa all'inizio del primo progetto. Si vede, sì. Sono proprio amici. Abbiamo un problema con le date, però. Sì, ma quello. Siamo amici. Chi non li ha? Doodle non è ancora arrivato? Solo al lavoro, al di fuori del lavoro. Preferiamo non usarlo. Sì. Con le date in che senso? Sì, no, vabbè, io ho una certa difficoltà a ricordarmi le date e anche a ricordarmi i nomi a volte, quindi. Come mi chiamo? Fabio. A questo c'è Fabio. Lui si chiama Marica, il cantante si chiama Marica. Il cantante è Marica, sì. Lo ricordo anch'io. Ma così, insomma, sì. Allora, questa associazione Let's Bridge mette gente insieme, crea amicizie, abbiamo il vostro esempio, e poi che cosa fa? Concretamente cosa possiamo dire ai nostri radioascoltatori? Cosa devono googolare, per esempio, su internet per cercarvi? Vai, Matteo. Ok, grazie. Il gruppo... Come si fanno le cortesie? no, ma questa non è una cortesia. Infatti... per trovarci il sito è www.togetherforpeace con la for scritto con un 4.be. E quello è il nome del nostro gruppo, con l'anno scorso il progetto Streetlight con il gruppo del Gen Rosso, e quest'anno il progetto si chiama Let's Bridge, riprendendolo anche dal Gen Fest che abbiamo fatto quest'estate. Ok, quindi non è l'associazione che si chiama Let's Bridge, è l'evento che si chiama Let's Bridge. È l'evento che si chiama Let's Bridge, mentre l'associazione si chiama Together for Peace. Ok, sì. E ci parlavate quindi dei Gen Rosso, per chi non è del settore. Una notte che cosa... di sudore. Questa è una canzone, sì. Bravo, sei preparato. Barca in mezzo al mare. Sì. Ma il Gen Rosso in realtà è un gruppo musicale internazionale che nasce con l'idea del Let's Bridge, cioè di mettere insieme culture diverse e creare della musica che possa essere accolta in però tutte le nazioni. Però scrivono comunque in italiano, no? Tendenzialmente loro scrivono in italiano perché il gruppo ha base in Italia, mm-hmm. Però poi spesso traducono le canzoni in altre lingue e mm-hmm. fanno tournée in altri paesi. Come Hopes of Peace, era loro o no? Credo di sì, sì. Non sì, sono sicuro. In non conosco tutta la discografia by heart. Ma dai, non ascolto. Santo, santo. No, quello non è di Gen Rosso, penso. Sì, quindi spieghiamo ai nostri radioascoltatori che stiamo parlando di musica sacra. Sì, però io specificherei, nel senso che loro fanno due cose. Loro fanno musica sacra, quindi canzoni che vengono cantate nelle polifoniche. Sì, e poi non sapevo questa parola. E poi fanno anche canzoni che invece vengono cantate durante dei concerti, canzoni normali, diciamo, che parlano di temi dall'amore alla vita, pop. Non so, alla natura, sì, pop, diciamo, sì. E forse è bene anche dire un'altra cosa, se posso, quello che certo. In effetti abbiamo fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso noi abbiamo coinvolto il Gen Rosso per una ragione. Il Gen Rosso organizza un musical che si chiama Streetlight. Mm-hmm. L'idea è raccontare la storia di un ragazzo statunitense, coinvolgendo altri ragazzi all'interno di questo progetto. Quindi l'anno scorso noi abbiamo organizzato questo musical con i ragazzi belgi di cui vi stavamo parlando, ed è stato bello, Matteo, perché abbiamo avuto penso 2000 persone che hanno partecipato all'evento. Quindi abbiamo fatto due spettacoli che hanno portato insieme 2000 persone e anche addirittura il principe e la principessa del Belgio, che sono venuti così a vedere l'evento. Perché? Perché penso che è apparso come qualcosa di innovativo l'idea di andare al di là delle differenze tra francofoni, fiamminghi e germanofoni, che a volte in Belgio si sentono in maniera forte. Quindi penso sia, questo sia il messaggio forte che l'anno scorso si è piaciuto e vogliamo replicarlo quest'anno. Cliché quello della pace, della comunicazione, che poi non è così comune, poi alla fine si è avuto così tanto successo, alla fine è un cliché, ma non sempre lo si riescono a mettere in pratica, no? Sì, non è una cosa facile quando si parla di andare attraverso e andare al di là di tutte le differenze che ci sono tra le persone. Sì. Senz'altro. E raggiungiamo attraverso un'altra via di comunicazione, quella della musica, e Alessio va a suonarci un'altra canzone di cui non conosco il titolo, ma ve lo enunceremo. Il titolo lo conosco io, ed è una bellissima canzone che magari lui ci potrà fare una piccola introduzione, perché è un pezzo molto particolare di cui lui, sono sicuro, potrà magari dire due parole prima di iniziare a suonare. Magari lo presenta lui direttamente con un po' di spiegazione, perché penso che meriti questo brano essere presentato. Il brano si chiama Il Temporale, è una rivisitazione dal punto di vista musicale un po' mia, diciamo, molto semplice. Ovviamente il testo è stato tradotto in italiano sicuramente da un cantautore, e è una canzone molto bella perché parla di un incontro d'amore fortuito grazie a un temporale, grazie a un fulmine, ed è una storia molto diretta, e qualsiasi spiegazione è superflua prima di averla sentita, insomma. Benissimo, allora qui sui Colori dell'Anima, a Radio Alma, Alessio Vitelli, Il Temporale. Buonasera e benvenuti ai Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9 FM. Per chi volesse telefonarci, potete telefonare allo 02 345 26 56, contattarci sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla On Air. Oppure tempestateci di sms allo 0032 471 407804. Grazie Giampaolo, sempre prezioso ho un talento particolare nel dare i numeri. C'era Paolo che diceva che lui aveva problemi con le date, io ho i numeri di telefono, cioè niente, non c'è modo di imparare il numero di telefono di Angelo. Cosa ho detto? Non abbiamo ricordato che è il numero di Angelo. Benissimo, innanzitutto ringraziamo Alessio per la sua... Grazie a voi. Alessio, per gli amici detto Fabio. Per gli amici detto Fabio. Ti sta. Mi sono battezzato. E questa reprise, questa cover di Brassens. Sì. Il Temporale. Sì, è bellissima, questa è una canzone... Veramente bella. A me piace un po' la musica diretta, quella che non deve essere spiegata, quindi... Quando c'è un canzoniere come Brassens e un traduttore sicuramente che non conosco, devo dire la verità, l'ho trovata su internet questa traduzione, e quindi se qualcuno la riconosce mi dispiace, ma mi ha dato un messaggio alla trasmissione, perché potrei magari dire. Però è anche la traduzione, perché dal francese non è facile tradurre con queste rime così, è molto bella questa canzone. E quindi ringraziamo Alessio, col quale parleremo tra un pochino, lasciamo un po' di suspense in modo che Alessio ci possa raccontare perché è qui, che cosa fa, eccetera eccetera, ma riveniamo ai nostri ponti. Quindi parlavamo di questa associazione Together for Peace e del loro evento Matteo, il 20 aprile? Sì, il sabato 20 aprile. Sabato 20 aprile, quindi il loro evento di questa associazione, e l'evento si chiamerà Let's Bridge. E da che cosa sarà caratterizzato questo evento? Allora, la giornata si svolgerà in due parti. Parte numero uno. Grazie, voce off. La parte numero uno sarà divisa anche lei in due. Una parte per gli adulti. No, al lato A. 1A. Section. E una parte riservata agli adulti nel teatro del Collège Saint-Michel a Etterbeek. Bello. Riservata agli adulti in che senso? Che saranno i focolari che faranno una trasmissione. Non c'è il bollino rosso. Non c'è il bollino rosso, almeno non ne siamo al corrente. È una parte riservata agli adulti, perché i focolari organizzeranno una specie di faranno venire un certo numero di persone a parlare giustamente del loro modo di vita e di tutta la vita nella pace, nell'armonia, chiamiamola i differenti valori che cercano di far passare ai giovani. Nel frattempo, per i giovani, dai, non so più se dai 12, dai 12 anni in su, dai 12 anni in su, c'è un'attività organizzata giustamente da noi giovani, adolescenti, persone un po' più grandi. No, perché forse non si è visto. Non si vede, ma sono un po' più grandi. Che Matteo ha indicato me. Vorrei precisare che ho 28 anni. Non mi sento così. Vecchio, esatto. Ma io non mi sento così grande, mi sento ancora giovane. Meglio per te. No, scusa, vai avanti Matteo. Vai. Dunque, sì, questa parte per i bambini è proprio delle attività che abbiamo messo, che abbiamo organizzato durante le nostre ultime riunioni, che saranno vivere il nostro Lifestyle for Peace tramite lo sport, tramite il canto, tramite il ballo, tramite tutte attività. Come si fa? Ma quello è una piccola sorpresa, ma alla fine cosa possiamo dire su di quello, Paolo? Guarda, sì, forse aggiungo qualche cosa. La prima è che in effetti la parte per gli adulti di cui parlava Matteo prevede la presenza di una persona che si chiama, leggo il nome perché è un po' difficile, Peter Adrian Sands, che in effetti è uno psichiatra infantile piuttosto conosciuto in Belgio. Pedopsichiatra si dice anche in italiano. E il tema di questo momento è come sviluppare... No, non cura i piedi. Questo non avevo dubbi. Ma diciamo, il tema del suo intervento sarà come sviluppare la fiducia per migliorare la qualità della relazione. Quindi gli adulti durante la mattina si dedicano a questo. Interessante. Mentre i ragazzi fanno sostanzialmente dei giochi, delle attività sportive insieme per conoscersi. Questo sì. Mi fa pensare al fatto che è vero che nella relazione molte cose vanno nel conflitto per una questione di paura. Paura della reazione che può avere l'altro, e quindi prima che l'altro praticamente ti fotte, lo fotti tu, cioè nel senso prima che l'altro ti può dare una risposta che ti fa rimanere male, ti delude, tu metti una barriera in modo che ti protegge da una eventuale appunto disillusione eccetera eccetera. Mi piace quindi questa cosa di incrementare la fiducia per fortificare la relazione e renderla più sana, bello. Sì, e trovo anche questo, lo penso personalmente, che questo che tu dici è vero e vale, penso, sia nel rapporto di coppia, che è la prima cosa a cui ci viene da pensare, ma anche con gli amici, anche con la famiglia, ma comunque, quindi si fanno questi due momenti distinti, oh my god, e poi nel pomeriggio ci si riunisce e i ragazzi che durante questi mesi hanno preparato... Quindi siamo nella parte numero due. Parte numero due A e B insieme, sì, gli adulti e i giovani si riuniscono. A incontra B? Sì, e insieme si guarda uno spettacolo. Un spettacolo preparato dai ragazzi che durante la mattinata? No. No, durante questi mesi. Ah, ok. Sì. No, perché sennò era. Sì, no, era un po' appezzottato, si dice dalle nostre parti. Tu che c'è la ragazza casertana, hai questo linguaggio che sento particolarmente caldo. di Maddaloni, sì. E quindi pomeriggio spettacolo. Pomeriggio spettacolo tutti quanti insieme. Per terminare alle? Per terminare verso le 4:30. No, bugia, verso le 6:30, scusate. È improbabile. E il pranzo sarà fatto tutto, diciamo, insieme. E da un punto di vista, come dire, logistico trattino economico, così do anche questa informazione pratica. Importante. Che è importante. Per gli adulti il costo di questo momento è 20 euro, compreso il pranzo. Mentre per i più giovani, che sappiamo a volte sono un po' più accorto. Che cosa intendi per più giovani? Me escluso. il costo. Vedi che non sei giovane. Lo so. Dipende dagli argomenti. Pre-giovane e giovane, lui è giovane, tu sei pre-giovane. Sì. Comunque per i più giovani quindi il costo a partire è 10 da euro. Fino a che età si paga 20 euro? Diciamo, penso si paga 20 quando si ha più di, diciamo, più di 28 anni. più della mia età. Sì, dipende da caso a caso. Vabbè, dai, pago anch'io, dai. Ma si paga 10 euro se si è ancora studenti. Io pago perché non arrivo al 1,20 m. È come quando da bambini si andava sulle giostre, no? Che se andavi sotto non pagavi, oppure non entravi, non lo so. Alessio, tu pagherai? Eh sì, sì, io, ma io ci andrò perché sono simpaticissimi loro davvero, cioè, quindi se fanno queste cose qui anche durante lo spettacolo, io ci vado, cioè, ci pago 20 euro solo per quello, per venire loro. Quindi due il 20 aprile sì. Tutti, dov'è l'appuntamento? Sì, sì. L'appuntamento è a Saint-Michel, come diceva Matteo, alle 10, il programma inizia alle 10. Ok, quindi io e Fabio... Alessio, veniamo. Siete invitati? Siamo veniamo, onorati di avervi con e noi. Che si mangia? Sai anche già il menù, perché devi sapere che i nostri radioascoltatori ci tengono. Sì? Ma no, questa è un'informazione che ha Matteo. No, è riservata, secondo me, almeno io non la conosco. Come è riservata? Questa è una delle cose più importanti da sapere. Barbecue? Chissà, potrebbe essere. Secondo me sento puzza di barbecue. Guardate, i nostri ascoltatori hanno già raddoppiato i commenti sulla pagina Facebook solo dopo aver sentito l'argomento. Sono interessatissimi a tutta la manifestazione. Okay. Allora dobbiamo fare qualcosa di buono. Dai, ci lavoriamo. Cioè, diciamolo, qui a Bruxelles appena c'è un raggio di sole si scatenano i barbecue. C'è anche il nostro amico Pisante che apre subito il giardino e inizia a fare barbecue. Ma, e quindi, sì, ma quest'anno facciamo. Ma prima di diciamo farci venire l'acquolina in bocca, nutriamoci con un po' di cultura con il nostro mitico maestro Gabriele che verrà a tenere la sua consueta rubrica d'arte. Prendi l'arte e fanne parte. Maestro, ci sei? Maestro? Ti sentite? Ti sentiamo lontano. La sentiamo, maestro, la sentiamo. Ah, perfetto, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera, egregio maestro. Sono qua per distruggere qualche ponte che avete già gettato. Bravo, vai, ti lasciamo. Con ottime intenzioni, devo dire. Allora, ti lasciamo da adesso un minuto di completo silenzio. Tutto tuo il minuto e poi dopo apriamo il dibattito artistico. Vai. Perfetto, io vi invito tutti alle scuderie del Quirinale a vedere la mostra di Tiziano, una mostra che dura fino al 16 giugno. Sono 40 quadri che arrivano da tutta Italia, da Firenze, dal Prado, da Napoli, da Roma, ed è veramente una mostra imperdibile. Un pittore veneziano, lo conoscete tutti, Tiziano penso, però di fama internazionale, che ha influenzato un po' l'arte del Rinascimento e del Cinquecento. Velocissimo, volevo dirvi solo due punti, perché andare a questa mostra? Ci offre uno spaccato, io penso, della vita quotidiana del Cinquecento, i comportamenti, l'abbogliamento, la moda, il costume, i divertimenti, la cucina, un po' una letteratura della figura del cortigiano, diciamo, della nobiltà, dell'aristocrazia di quel tempo. Secondo punto, il senso del colore di quest'artista. Con tre colori, bianco, azzurro, rosso, era capace di far rivivere, di far vivere i personaggi, di sottolinearne i gesti, i movimenti, però di farci sentire anche il mondo degli affetti, dei sentimenti, della psicologia. Questo è, in due parole, proprio in un minuto, Tiziano, questa mostra che secondo me va vista. Vi invito tutti inoltre a Roma. E niente, tutto qua, spero di avervi dato una notizia. E via con le domande da studio. Tra l'altro vedo che hai pubblicato immancabilmente donne nude sulla nostra pagina Facebook. Ne ho messe due così lui. Si è mantenuto, potevano, questa volta non potevano mancare. Una si chiama La Bella di Urbino e l'altra La Bestia. Non si sa chi è, io ho delle idee, non si sa chi è, io ho delle vaghe idee di chi sia. maestro senta, maestro, ma noi sappiamo anche che lei ha altre doti artistiche varie. Specifichiamo, doti artistiche. Artistiche. Vabbè, lasciamo questa cosa in sospeso. Una volta però vi farò una bella sorpresa. Ci saluti La Bella? Una donna vestita. Posso fare un saluto? Prego, maestro. Faccio un saluto alla mia amica del cuore Ana, che litighiamo sempre tutti i giorni. Quindi faccio un grosso saluto. E anche alla mia amica Astrid, che è incinta e fra poco avrà una bellissima bambina. Ma l'hai vista? Sì. Arrivederla maestro, arrivederla, arrivederla. Sempre preziosissimo. E questo era il momento del prendi l'arte e mettila da parte. E avete appena sentito un brano di Alessio Vitelli che si chiamava, c'è un nome un po' lungo, Alessio. Il mare, un bambino e suo padre. È scritto questa da lui, ragazzi. Questa è una canzone che ho. Che probabilmente l'ho presa da un tema che avevo fatto da piccolo. Che è una bella storia, mi piacerebbe un po' raccontarla un attimo. Vai, perché vai, prego. Questa è praticamente da bambino, ho scritto un temino a scuola, se ne scrivono tanti. È un po' mio padre aveva questa passione, ancora adesso ha questa passione della pesca, e io mi ricordo da bambino che stava ore e ore con una canna sugli scogli, ma per ore, d'estate sotto il soleone, e mi chiedevo ma che cacchio ci sta a fare, cioè lo posso capire, ma non pesca niente, cioè non ci deve essere qualcosa sotto, cioè non ci può essere solo quello, e quindi io, siccome mi pare un po' schivo, allora entravo nel discorso un po' da lontano e gli devo appunto su questo discorso, chiedevo un po' com'era strano questo mare, che non blu il mare, blu il cielo, e non si riuscissero a mischiarsi poi alla fine, e in qualche maniera lui a una domanda così banale, magari anche senza risposta, riusciva a darmi una risposta che non aveva risposta. Alla fine la chiave del discorso qual era? È che questa non risposta a me mi ha dato un po' da pensare, e questo pensare mi ha fatto un po', penso, crescere un minimo di senso musicale, un po' poetico così, e mi chiedevo appunto ma chissà se ci parla mio padre, chissà gli altri papà cosa chiederanno al mare, e quindi io ho voluto fare questo piccolo temino da grande. Siamo in lacrime, in lacrime. Proprio, in lacrime, in lacrime. E le maestre ti hanno fatto una standing ovation, praticamente. Ma tu ci credi che ci hanno pianto davvero la gente? Cioè mia madre e mio padre, quello. Il più importante. Sì, sì. E a proposito di standing ovation, devo dire che c'è un gran tifo su Facebook per il nostro Alessio, perché ci scrive Maria Luigia, che è tua sorella, credo. Tanti Vitelli in Italia. Sì, ci sono tanti Vitelli. E dice: un ponte d'amore che va dal tavoliere delle Puglie fino a Bruxelles, punto d'ascolto a casa Vitelli. Mancano solo gli striscioni, sì, c'è tutto il tifo giù. Sì, sì, siamo 4, 5, sicuramente stanno tutti là. Sono tutti all'ascolto, sono collegati anche con la pagina Facebook, quindi stanno interagendo con noi. E salutiamo anche dalla pagina Facebook i nostri fedelissimi ascoltatori, Maria Gazzi, che non vediamo da tanto tempo. Ciao Maria! E poi Cristian Perrone, Francesco Mastrandrea, e il nostro Gabriele che ci segue anche sulla pagina Facebook, e tutti gli altri che hanno scritto, che vediamoli in ascolto collegati su Facebook. Continuate a scrivere, a intervenire, diteci la vostra, commentate cosa ne pensate di questi ponti, di questi ragazzi, Alessio, Matteo e Paolo, che si incontrano sui ponti, a volte fanno amicizie, a volte si insultano, però. Ma vogliamo sapere qualche cosa in più su Alessio. Sì, diciamo che il tempo della suspense è finita. Vorremmo sapere che cosa è venuto a fare Alessio qui a Bruxelles. Sappiamo che sei arrivato da qualche settimana, nella migliore stagione, e praticamente. Sei stato accolto bene da Bruxelles. Sì, subito, appena arrivato. Sì, un Andrea che mi ospita, che ha questa. Mi ha detto: guarda, non nevica a marzo, da quando sto qua, non ha nevicato a marzo. Guarda, è capitato quest'anno. Due volte, e vorrei approfittare di questo per dire, visto che c'è tanta neve e così, e sono qui per un motivo, penso, abbastanza si possa comprendere, insomma, ho bisogno di lavoro, spero che si continui un po' anche a nevicare, magari se qualcuno ha bisogno di spalare neve, queste cose qui, io mi propongo, e su Facebook darò il mio numero di cellulare, belga, e così, se volete, io... Prezzi modici, insomma. Però diciamo che Alessio, a parte scrivere magnifiche canzoni, è anche architetto. Urbanista. Urbanista, perché mi hanno detto: devi dire che sei urbanista, perché architetto è un'altra cosa. Diciamolo. Che spiega per i comuni mortali la grossa differenza. Guarda, dopo 7 anni ho ancora difficoltà a capire, perché è talmente vasta come materia che mi hanno fregato. Per gli ignoranti, che fa l'urbanista? Praticamente pianifica e progetta, diciamo, migliorare la città e tutto quello che c'è dentro, quindi è tutti i piani sociali, piano sociale, un piano politico e piano appunto delle costruzioni, dei trasporti, un po' di tutto. Okay. Qui quindi siete messi bene, quindi penso che mi devo davvero buttare sullo spalaneve perché quindi sarebbe anche il piano delle della circolazione, anche, piano stradale. Sì, anche. Italiani a Bruxelles all'ascolto, vi serve un urbanista? Chiamate a Radio Alma fino alle 22:30, fino alle 22 siamo in onda allo 02 345 26 56. Ok, oppure, okay. Oppure lo cercate su Facebook all'indirizzo che ci darà lui. Sei tu. Sono io. Sei stato nominato. Su Facebook Alessio Vitelli troverete sicuramente la mia pagina musicale. Parlavi di quello, giusto, Angelo? Ma io parlavo in genere, sì, che in ti generale. Devono trovare. Se uno ti vuole contattare, sia per arte, sia per lavoro, come ti fa a contattare? Alessio Vitelli su Facebook è la mia pagina musicale. Troverete quindi anche i contatti personali in quella pagina. Benissimo, benissimo. Ritorniamo in studio dai nostri Carla e Giampaolo. E quindi facciamo appunto un ponte, perché mi sembra un buonissimo esempio quello di Alessio, che attraverso un bel ponte che si estende lungo tutto l'Appennino italiano, dalla Puglia è arrivato qua, e anche grazie a un altro legame umano. Quindi ringraziamo, tu citavi un tuo amico che ti ospita qua, che ti ha presentato me tra l'altro, sì, e sì, tutti gli altri, il regista Angelo, sì, Giampaolo, sì. Qui stasera si sono creati nuovi ponti, sì. E quindi grazie a questi ponti, che bello averti qua stasera. È un piacere, non me l'aspettavo. Poi con Andrea ci conosciamo da tanti anni, e oggi proprio tornando qui in tram, venendo qui in tram, dice: ma ti rendi conto che 10 anni fa stavamo al liceo, avresti mai pensato che dopo 10 anni ci saremmo visti su un tram a andare alla radio a fare un programma? È una cosa bella, insomma. E la cosa bella dei ponti è che non hanno fine, quindi sì, tu metterai i tuoi ponti, noi nostri. Ma bisogna alimentarli i ponti, bisogna mettere sempre, non bisogna mai scoraggiarsi, e bisogna sempre cercare altre persone con materiale, esatto. E costruire questo ponte lungo che è poi fatto di connessioni e di network e di buona e brava presenza, come Alessio, perché è anche un bravo ragazzo, come gli altri due. Sono molto gli altri due ospiti che sono che si vorrebbero picchiare a vicenda, ma sono due bravi ragazzi anche ringhiano. E nel frattempo il tavolo gli salva. Nel frattempo aumentano in modo esponenziale i fan di Alessio su Facebook. C'è anche Marianna Palmer che ti saluta, e Loreto Galan, che salutiamo tutti quanti. Loreto, te lo Ciao. Possiamo, te lo presentiamo, lui è single, tu sei single, facciamo l'incontro, dai. Vai Loreto, abiti pure vicino casa, Radio però non Alma, lo diciamo, per rispetto della privacy. Radio Alma è passata dai colori dell'anima a Stranamore. Benissimo, beh, io direi che siamo quasi in chiusura, quindi farei un piccolo flyover la trasmissione. Che parole. Che te sei magnato, dizionario. Mamma ragazzi, c'ho un aulito che fete di cipolla, meno male che i nostri radioascoltatori non lo sentono, perché nella insalata che mi sono mangiato c'era un sacco di cipolla. Comunque facciamo questo flyover e poi lasciamo la parola, quindi il canto e la chitarra, a Alessio con Jimmy. Quindi facciamo questo flyover. Quindi vi ricordiamo l'invito che Matteo, Paolo e tutta l'associazione dei Together for Peace fanno a tutti, non so, i brussellesi e non, per il 20 aprile alle 10 al Collège Saint-Michel vicino Montgomery per Let's Bridge. Che ripetiamo, che cos'è? Per chi si è sintonizzato adesso, velocemente, cosa devono venire a fare? Creare dei ponti. Creiamo dei ponti. Quindi portate cemento e facciamo il ponte. Dai Matteo, come li creiamo? Ditelo che se magna, aprile. Ragazzi, ditelo che se magna, che la gente arriva. Direi, si può intanto visitare il sito, come abbiamo detto, Together for Peace. For è il numero 4. Numero 4. Together 4P. Peace, scritto peace.be. Per quelli come noi che l'inglese non lo masticano. E sarà un'occasione per prendere informazioni e contatti sul programma. Per divertirsi, per condividere cose, per mangiare. E per conoscere un lato diverso di Bruxelles, direi, e del Belgio. Ok, sì. Quindi alla base un concetto di pace, di ponti. Unità. Sì. Bene, ricordiamo il giorno ancora per Let's Bridge. Sabato 20 aprile. Dove? Yes. Yeah. Collège Saint-Michel, Eiterbeek. Benissimo. Ore 10, l'ingresso è? 20 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi. Benissimo, grazie mille di essere stati con noi. Adesso Carla e Giampaolo, chiudiamo questa serata. Grazie mille. Ci vediamo l'ultimo lunedì del mese prossimo. È stato un piacere. Salutiamo al volo gli amici di Facebook. Chi ci abbiamo lì? Ciao ragazzi di Facebook. Allora stasera abbiamo Loreto Galan, Maria Gazzi, Maria Luigia Vitelli e... Gabriele, chi più ne ha più ne metta, veramente stasera si sono collegati un po' in ritardo, però sono arrivati in tanti. Benissimo. Ciao ragazzi. Carla, tu un ultimo. Ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo Alessio, Matteo e Paolo per i numerosi ponti che hanno messo e il colore dare un della colore trasmissione. Allora, stasera chi sceglie il colore? 3, 2, 1, chi lo vuole scegliere? Non vi picchiate però, picchiate. No, basta pugni, basta. Forza, 1, 2, 3. Paolo, sì, vai. Paolo. Giallo. Colore giallo, questa sera ponti gialli. Ed ecco il colore giallo che noi vi diamo appuntamento all'ultimo lunedì del mese prossimo e intanto vi lasciamo con Alessio Vitelli con l'ultima canzone che ci delizierà e ci accompagnerà in questa fredda notte brussellese che sarà riscaldata dalla sua voce. Alessio Vitelli, Radio Alma, questa sera 101.9.